Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ci sono vari tipi di fantasmi nelle nostre città. Ci sono per esempio gli ex insediamenti industriali abbandonati perché diventati inutili. Ci sono i quartieri periferici spesso nati dalla necessità di dare un tetto alle migliaia di operai che in quei vecchi insediamenti lavoravano e che però non hanno trovato una nuova funzione. E poi ci sono i luoghi della cultura, certi luoghi della cultura, pezzi del nostro ricco patrimonio che sono semplicemente inutilizzati. Li conserviamo come si farebbe con una biscia sotto formalina, per cui guardare ma non toccare. Ecco, oggi molte delle più interessanti opportunità di sviluppo urbano partono dal rammendo, dalla riparazione di situazioni come queste. Ne parliamo con Alessandra Segantini, che è architetto e titolare dello studio CPOS insieme a Carlo Cappai, studio di architettura, ed è chair of architecture board alla School of Architecture di Londra. In realtà insegna in un bel po' di altre università come visiting professor. Buonasera Alessandra. Sandra. Buonasera. Eccoci qua. Allora, voi avete proprio identificato un metodo, diciamo così, un approccio ben preciso a questo tema della riparazione delle città. Parlate di adattatore urbano. Che cosa intendete con questa parola? L'adattatore urbano è una specie di infrastruttura, un'infrastruttura light che concentra tutto quello che è necessario per utilizzare gli spazi che il passato ci ha regalato, che ancora oggi non sappiamo utilizzare, e concentriamo in un oggetto bello e smart, cioè tecnologicamente avanzato, quello che è necessario per far funzionare questi spazi oggi. Ecco, vediamo subito un esempio, perché è esattamente quello che avete fatto, se non sbaglio, a Venezia, in particolare l'Arsenale di Venezia. Ci puoi descrivere appunto l'operazione? Avevamo un piccolo padiglione all'Arsenale. Abbiamo concentrato tutte quelle che noi chiamiamo le funzioni sporche in qualche modo, quindi servizi igienici ma anche tutta la tecnologia eccetera, in una specie di relitto, di adattatore che permette a tutto il resto dello spazio di essere vuoto e quindi di essere pensato per essere utilizzato in qualsiasi modo. Quindi qui il tema è fare in modo che le infrastrutture che servono per fruire di questi spazi, che saranno appunto dai servizi igienici alle connessioni wifi, un po' tutto, il condizionamento e quant'altro, voi dite se vogliamo usare questi spazi dobbiamo trovare il modo di impacchettare bene questa infrastruttura e anche in modo leggero, cioè senza intervenire pesantemente, appunto in questo caso sull'arsenale stesso. Ho capito esatto. Bene? Esatto, abbiamo inserito infatti qui un layer di cellule fotovoltaiche che sostituendo una piccola parte della copertura con una porzione in vetro, fatto da queste membrane, quindi molto sottili e divise in piccoli pezzi, questi elementi interagiscono in modo molto sofisticato, in qualche modo, giocando con quella che sono le fantastiche tessiture dei muri di mattoni, piuttosto che le tessiture della copertura. Quindi c'è insomma un'integrazione sia tra l'aspetto estetico, appunto, e quello funzionale. La nuova cittadella della giustizia di Venezia è un altro progetto iconico, diciamo così, da questo punto di vista. Tra l'altro, premio speciale della medaglia d'oro dell'architettura italiana nel 2012, addirittura è stato presentato questo edificio al Museo di Arte Moderna di New York tra i 10 edifici rappresentativi dell'architettura degli ultimi 10 anni. Ecco, insomma, ce lo descriva un po' che cos'ha di speciale. Il concetto dell'adattatore è un concetto potente perché è interscalare, cioè ci permette di utilizzarlo alla scala piccola dell'interno come alla scala della città. In questo caso è un edificio stesso che permette a un'ex struttura industriale novecentesca, una ex fabbrica di tabacchi, di essere utilizzata grazie a questo edificio infrastruttura come nuova città della giustizia a Venezia. Perché? Perché questo edificio sostanzialmente si innesta nel tessuto urbano ed ha funzioni ibride, è una grande piazza quando sarà completato tutto il progetto, dove i cittadini potranno recuperare quest'area dismessa, ma contiene anche tutte le infrastrutture negli ultimi 2 piani che permettono a questi edifici dismessi, ex industriali dismessi, di lavorare nella contemporaneità. E quindi è di fatto l'edificio stesso un adattatore, ma per noi è stato anche un po' una provocazione. A Venezia non si poteva fare architettura moderna, e questo invece diciamo è decisamente moderno nell'aspetto, anche se richiama quello che ha intorno. Ho capito bene, o questi impianti che avete messo sostanzialmente appunto negli ultimi 2 piani forniscono servizi anche agli edifici circostanti? Sì. Nel senso che concentrando tutti gli impianti negli ultimi due piani di questo edificio, noi liberiamo tutto lo spazio intorno, quindi lasciamo che gli edifici vengano fruiti per la bellezza che abbiamo ereditato, no? Questi grandi spazi, grandi dimensioni, tessiture murarie. E allo stesso tempo questo edificio diventa invece l'immagine di quello che di solito viene considerato brutto. Convenzionalmente pensiamo che gli impianti siano qualcosa che non vada visto, ecco, secondo noi invece ripensare a questi concetti in modo non convenzionale e far vedere o farla diventare belli è forse un modo interessante per guardare o per trasformare le nostre città. Grazie Alessandra Segantini. Grazie Maurizio. Va bene, ci fermiamo qui, ci risentiamo domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.